cosa c'hai? No, sto sotto un ammasco che ha detto ciao ciao nel 23 e io ho detto io ciao ciao. A chi Marco sul 23? Va vedendo dei castagni e di roba da mangiare. E quindi ho detto ciao ciao. E allora gli ho detto ciao ciao. A te mi è successo un guaio. Mi hanno tolto le chiavi alla testa e passi che avessi su delinquente e ha tirato i giavi, a chi ha intenzione di entrare in occhio, però se entra in occhio ti mongolava alle impronti io. E chi? Cesare, chi? Ciao, ma cosa ha fatto? Dove si era aperto la porta, siccome c'era la porta aperta, no? Che mia moglie è una stronza, quando dico sempre chiusa la chiave, e non ha tirato i giavi, di mia moglie. Mi ha tolto le chiavi, ma perché quella casa è la sua? Quale? Dove sto io? Ehi. Le mie moglieri, Sono già entrato allora. Deve essere vuole entrare a rubare qua. Non ti ho capito, ha lasciato le chiavi attaccate tua moglie. Ehi, però non ha chiuso la porta, capito? E da fuori si può aprire se tu non gli dai la mandata. Sì, a questo punto è arrivato. Ehi, già c'ho la zia Glock qua, carica. Sii attento a chi come si cava un capo cazzo che lo posso saltare in aria. Ma quello è domiciliare lì, No, che libero, può andare dove cazzo vuole. Adesso domani mi tocca lasciare mia moglie qua, e andare a comprare la serratura, perché mi tocca cambiare la serratura adesso. Dimmi tu, Luzano. Ma non c'è da burro. Non sai che avrai sopra e da se hai una becca. Ah, ingenua, cazzo, ma ti bari poi da gara, io ho una becca, non lo so io. Adesso cazzo mi tocca comprare la serratura blindata, mi tocca prendere per la porta che è blindata, mi tocca dimontarmi tutto, cazzo, va a piazzarla. E poi il problema è che costa anche un po' di soldi. E lo so che costa. E non rammare, ragazzi, tutta a me ti viene gattissà, cazzo. Si è andata in macchina a vedere se la trova dentro la macchina mia, a chi chissà, non sa manco un dio, guarda un capo in mezzo alle nuvole là, il premio non mi beglia di mia là, di Giavi. Cos'è successo? Ditelo a me. Vai, comprati le castagne e tu vai, no ombra, vai, comprati le castagne. Orecchione. Castagne, dice si doveva, a te l'immagine. Tu sai quante radio ci ho acceso io? 18. Una in ogni frequenza, una in ogni canale, due vicinare forse a te. Eia. No, ma cosa è successo Natali? Le chiavi avete perso? Ehi, Cesare le ha prese. Ecco perché stavo abbagliando così il cane. Ha visto, da Iana mi ha tirati dalla rido, compreso. Adesso mi tocca stare qua, cazzo, non puoi uscire, perché uno ci deve essere sempre in casa. Este è uno casino. E adesso mi tocca comprare la serratura della porta blindata, chissà quanto mi costa, e smontare tutto per piazzarla. Guarda, ti costa almeno quasi 100 euro con la serratura, sei come la mia. Ti costa quasi 100 euro. E quelle chiavi lunghe c'ha con la doppia mappa. Oh, ho visto una cosa su internet e mi si è gelato il sangue. E cosa hai visto? Ho visto questo video dove un video dimostrativo dove usano queste chiavi bulgare per aprire le serrature blindate. Come niente te le apre. Si chiamano chiavi bulgare. Mette un coso, tra, aperta la porta. Non c'è serratura blindata che tenga, anche singola mappa, doppia mappa, niente, tutte le aprono. Tutte. Vabbè, tanto noi già siamo poveri, non c'è nulla da rubare da noi. Sì, ma a me mi si girano i coglioni, cazzo, che uno possa entrare qua. Ehi, Natalia, ma io non ho capito esattamente cosa è successo. Ha perso le sue, tua moglie, ha perso le sue chiavi, così è. No, Cesare glielo ha rubato l'adresso. Cesare? Ehi. Ragazzo, se togli la testa poco riesci a entrare qua, cazzo, li metto a parlare in pronto. Non ci credi tu, oggi gioco di zitto. Ma Cesare chi? Quello che piano di sopra, quel delinquente. Io gli faccio saltare la testa in aria, ma lui non ci crede. Cioè, gli ha fregato le chiavi, così è. E allora? Ha aperto e mi ha tolto la chiave da dietro. Chi sta stronza di me ancora da caldo, già la cosa accesa. Vabbè, va, ci sentiamo un altro momento che è venuta gente. Aspetta, a me era successo me. Oh Claudio, una volta, vabbè, è successo a mamma, è successo a me, perché siamo io rimbambiti un po'. Entro in casa e lascio le chiavi inserite fuori e c'erano quindi la chiave del portone, la chiave di casa, la chiave della serratura pseudo blindata, tutto. E mi addormento a casa, no? Vado a fare la penichella. Non mi trovavo le chiavi, a metà serata apro la porta e c'erano le chiavi ancora inserite. Per fortuna nessuno le ha toccate. Ma bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti. Cosa vuol dire? E infatti gli occhi che ne ho comprato un'altra, è arrivata ieri, altro giro, altra corsa. Un'altra radio ho comprato, sei un pazzo. Guarda, guarda, sono insaziabile in questo periodo, non so più dove mettere, mamma i turchi. Oh, se avessi avuto tante donne io, quante radio hai avuto tu, sarei felice. Adesso il cellulare è spento perché si era proprio scaricato a zero. Dopo lo accendo, quando è caricato bene lo accendo e mi guardo la radio che è terminata. Ma cos'è? Dimmi almeno HF, VU, cos'è? È simile all'altra che ci offro, questa mi piaceva troppo. Questo era troppo invitante, è un residuo di magazzino. Ho fatto la scatta, l'ho preso. Vabbè, è ok. Adesso cambio baracchino, mi metto anche il microfono da tavolo, perché lasciarlo fermo si rovina, già era tutto impolverato, l'ho spolverato, mamma mia, ecco perché vorrei smaltire il baracchino, me ne vorrei togliere dalle palle un po' di questi baracchini, troppi proprio acquisti selvaggi. Più le FIBIOIESI FT 8008, che poi è un 8009 in realtà, chiedi a qualche radiatore se lo vuole, 200 euro, me l'ho pagato 3, aspetta c'era lo scontrino, 3 tanti, 3, oltre i 350, 360, c'era anche la modilla espansione, perché 15 euro per espansione, poi vabbè la spedizione assicurata c'era, vabbè. 200 euro, nuovo è, nuovo, è usato pochissimo, solo per usare, per parlare in PMR, è un veicolare solo FM, fa 29, 50, sempre le, i segmenti solo in FM, non dico le bande, 29, 50, poi VU. Quella roba che c'ha Luca, la croce in vendita, cos'è roba tua? Sì, sì, sì, sì, l'ha messa su un mercatino che io non conoscevo. Non conoscevo assolutamente, non è Roger Campa però, no. Che roba è? Roma Sassarese, di dove è quel sito? No, non ne ho io, me l'ha fatto vedere, ho riconosciuto la tua roba praticamente. E gli ho ceduto una cosa per la pesca che lui usa, insomma, userà, io non ne uso più, non ne posso usare. Roba pesante da portare, il fisico non me lo permette, quindi siccome stavo parlando di radio ho detto sei. Solo che sai cosa, se uno vuole vendere più in fretta bisogna mettere su eBay o sui mercatini tipo Roger Campa, ma non è voglia di spedire io la roba, devi fare il pacco, ti rifare la fila alle poste, è una rottura di palle. Vabbè, che se vuoi vendere bisogna fare così per forza, se vuoi vendere. Beh, normale, normale, bisogna darsi una mano uno con l'altro, poi lui c'è il pratico, perché a me mi aveva venduto il 940, se ne era occupato lui totalmente. Va bene, va bene, ok, e tutta la sera, ho abbassato il volume, perché io sto, ce li ho tutti accesi a radio, quindi c'è anche il PMR, quindi c'è tutto, frequenze amatoriali, HF ce ne ho 3 accesi, ma 80, ma in 20, ma in 40, è tutto acceso stasera, ma è tutta la sera in PMR che rompono le scatole questi bambini, questi ragazzini, mi stavano ammazzando, ho abbassato il volume, ancora adesso, con queste Cicalino, Cicalino, queste cose si chiamano uno con l'altro, a destra, a sinistra, a Vendaburutto, ce l'ha mettato anche Gio Maria con Graziano, e cosa vuoi fare? Quelli sono liberi, capito? Verano e Gane e Porci, li si porta a Tirini. Ah, sul 7, sul canale solito, perché lì, sai, i bambini avranno sentito parlare Getti, allora sono andati lì. Invece qua in zona sento dei bambini sull'1 o sul 2, ma un casino, non lo sanno usare, cioè premono, parlano, lasciano premuta la portante, oppure mandano 10.000 volte la chiamata, quel cicalino che hai detto tu, magari sono quelli, un casino fanno, cioè non viene usato correttamente, viene usato tutto. Beh, va bene. C'è una corrente qua, aspetta, perché qualcuna ha il vizio di aprire la finestra del bagno, capito? Perché si deve affacciare. E io mi devo pigliare la corrente, adesso chiudo tutto. Ti devo chiedere, ma tu quel baracchino l'hai comprato la tua persona, quello col display blu? Sì, sì, quello super sarta, eccetera. Eia, lo vuoi il frequentimetro? Metà prezzo. Tiro tutto, la scatola, la staffa, tutto ti do, metà prezzo. E quanto hai pagato? Già non c'è metà prezzo. Io l'ho pagato, non lo so, adesso non me lo ricordo, era in sterline, non so, l'equivalente di una settantina di euro. Posso darlo anche 40 euro, è nuovo. Che io mi sto facendo soldi per la moto, capito? Guarda, se aspetta lasciarlo dentro l'armadio, buttato. Quindi quello farà la stessa fine, perché baracchini io qua non emetto, non voglio mettere perché c'è un sistema bello, ordinato, praticamente solo HF basta, l'unico baracchino che c'è è il DAC, ma non sembra neanche un baracchino, ed è acceso adesso, è sul 23 che stanno parlando. Vediamo un po', dai, adesso mi hai preso un po' in contropiede, però può essere interessante, capito? Vediamo un po', fammici pensare, perché buttarlo dentro l'armadio mi dispiace, già ce ne sono 4 i baracchini, cui uno mi ha costato 350 euro, capito? Quindi l'ho buttato dentro l'armadio, proprio dentro l'armadio, lì, fermo, l'ho messo dentro una busta per non graffiarsi, no? È un vero peccato perché ho un superstar 2009 Colt, che è una bestia, però non mi piace metterli qua, capito? Devo creare uno spazietto solo per i baracchini, se riesco sull'altro lato magari, che lascio solo il DAC qua, e sull'altro lato metto tutti i baracchini con il commutatore d'antenna, un lavoro fatto bene. Allora si può fare, capito? Però se hai una richiesta specifica, Lallo, ma può essere interessante. No, infatti se lo tieni nell'armadio non ti conviene. Perché tanto io lo usavo nel 10, ma adesso non. Purtroppo siamo nel nulla, cioè siamo, come dire, il picco delle macchie solari, cioè ogni 11 anni. Quando c'è il picco delle macchie solari c'è una propagazione da paura, più si avvicina il periodo più è da paura la propagazione 27. Purtroppo noi siamo a metà strada, siamo nel nulla, siamo al minimo delle macchie solari. Si chiama ciclo undecennale dell'attività solare, capito? Quindi dobbiamo aspettare ancora 5 anni e mezzo prima che arrivi la propagazione come si tocca. Guarda, c'era, quindi 5 anni fa, quando sono rientrato nel 2010 c'era una propagazione spettacolare. Io mi ricordo che andavo a Scala di Ciocca, lì dove si ferma il tram, col baracchino, e c'erano con l'antenna dei colori mi arrivavano 9:30 i camionisti. E c'era in banda laterale, sul canale alto, una propagazione spaventosa. Perché c'era appunto nel 2010-2011 il massimo dell'attività solare, o 2012 che fosse, insomma, era spettacolare la propagazione, potevi fare di ex e buoni. Adesso bisogna aspettare, purtroppo. E adesso periodo estivo, infatti, Massimiliano sul 45 con l'eco, insomma. Ho preso quello, la radio e il linearetto, un 747 da Massimiliano. Capito? Che ce l'avevo sempre io, alla fine poi te l'ho detto e lo sono comprato. L'ho usato un paio di volte, adesso è pronto l'armadio. Ripeto, c'è anche l'Avan 48, c'è l'altro, però i baracchini qua non ci stanno. Non ci stanno perché non fa. Devo creare qualcosa sull'altra parte, praticamente sulla fine della U, la L, fare il proseguimento lì e lì fare una sezione di baracchini, tutti quelli che sono dentro l'armadio, capito? Non fare altro che girare la sedia a spalle degli HF e di tutta la parte amatoriale e creare uno spazio CB, perché sennò diventa una porcheria. Non c'ho un veicolare io non ho un veicolare qua, sono tutti base, tutti, anche quello che ho preso adesso ultimamente è base lo stesso, sono tutti base, quindi avere questa cosa a mezzo piedi non mi piace, però vedrò come organizzare, perché Giulio non sta facendo più niente, però non c'ha più niente lì, quindi non può fare più niente. Devo approfittarne prima, se no mi avrei fatto fare un altro pezzo uguale a questo, con gli stessi piedi, tutto l'avrei messo sull'altro lato, era in programma, poi abbiamo lasciato stare perché avevo altre cose da fare, quindi ho lasciato stare, però ci vuole e boh. Va bene Marco, dai, devo mangiare a Filippo, comunque siamo qua sul 10, ok, sto anche ascoltando allora sul 23, un po' di corsi alla tre parti. Sono qua 5 minuti e sono nuovamente in radio, se devi fare qualcosa falla, eh? Sì. Adesso metto l'altro 3009 col display blu, che è fermo da un bel po'. Dai, cambio radio, metto anche quello da tavolo, perché se la roba non la fai funzionare ci rovina, c'è poco da fare. A dopo, ciao. Ehi, non sei pronto, chiama, io già sono qua. Prova, 1, 2, 3, 4, 5, hola. Aia, sono qua, Mamma mia, come sto? Aia, eccomi, oio, mi illumino che cade, eccomi qua, Superstar 3009, display blu, nonché ZGMB più 5, come vado? Non ho capito perché non luce sto baracchino con questo microfono. Ottimamente bene. Ehi, c'è qualcuno che chiamava, avanti? O che ha fischiato, no, niente? Io non ho sentito nessuno. Ehi, un attimino che lo sistemo. MB più 5, la batteria è sempre quella ricaricabile, il tono è a 3, il volume è a 6. Distanza, vediamo, 20 centimetri, dai. Eia. E poi vediamo, non so perché questa connessione non stia andando, per vedere la tua radio, poi ti stavo inviando il baracchino, quello blu col frequenzimetro. Sono uguali i 2009, tutte e due uguali, cambia il display. Bene. Sarà come quello che ho io, il canale blu e strumento blu, solo che mi ha colto, c'è la scheda colta. Però dovrebbero essere, i modelli dovrebbero essere uguali. KK. Va bene. E Tatalino? Natalie. Ha detto che aveva gente. Ma lui come la sala, come ha fatto a sapere che è quello che ha preso le chiavi? Ma dice ne abita uno solo lì, così è. Cioè se no, se sono due piani lì. Vuol dire che lo sa, non sono preparato in materia, però se è così non va bene, assolutamente. Capito? Perché adesso deve cambiare tutta la serratura e con la serratura c'è un costo. Anche qua a miei suoceri che anziani e non si sa dove aveva messo le chiavi mio suocero e non le hanno trovate, quindi ho aspettato qualche giorno e poi è venuto Mario Mura a fare falegname, che è amico mio cognato, ed aveva cambiato la serratura ed era costato più di 100 euro, perché quelle serrature costano, quelle delle porte blindate. Via. Per fare la foto ho dovuto mettere il baracchino in posizione assurda, perché altrimenti scivola, il frequenzimetro scivola dietro, perché l'ho messo sopra l'altro 3009. Qui già si vede dalla foto, dai. Mi serve di quelle cose antiscivolo, quei tappetini antiscivolo forati che vendono per il cruscotto, mi permettere le chiavi cellulare, quello lì usavo. Me ne serve un altro pezzo. L'ho visto, dove l'ho visto, forse ai cinesi. Forse ai cinesi, infatti mi sembrava il tappetino per il mouse. Ho detto, ma è ruvido, no, mi ha detto non è per il mouse. Quello di Predanieta, dove c'è Portobello. C'è un cinese che parla italiano come noi, deve essere tantissimi anni qua. Ho fatto la scuola, non lo so. E poi ho capito appunto che era un tappetino antiscivolo. Va bene, va bene. Sì, proprio non c'è connessione qua. Non c'è connessione. Ma c'è una cosa allucinante questo telefono. Boh. O meglio, questa Wind. Perché della Vodafone 1000 segnale, così appare e scompare, non si sa perché. E se volesse me lo manda? No. Bubu. Pigliala in. Ah, vediamo, impostazioni, gestione schede SIM. Poi, connessione dati off, come mai? Se. Pensa, si è disattivato da solo. Connessione dati off, non so il perché. Ecco, adesso l'ho attivato, vediamo se compare il segnale. Bubu. A diventare scemo a questi computer, a questi cellulari, eh? Vediamo se me lo manda. E riprova, pigliala nel. Migliomi? No, non me lo manda. Sta arrivando il tuo, ma non me lo manda il mio. Riprova, te lo faccio in diretta, mi? Eccolo qua, metà, tre quarti, adesso ti arriva, eh? Ehi, ehi, guarda il mio, ma non dire che radio è, molto bella, è invitante il prezzo, ma sì, lo prendo, messo fianco all'altro. Va bene, riesci a vedere? Sì, ma siccome è la mia, questa non cambia niente, Marco. Ma tu hai quello Proxel, marcato Proxel, oppure quello marcato CRT? Adesso è dentro l'armadio. Il mio è vecchio stampo, praticamente Superstar 3009 il vecchio. Ma è come questo, però? Mi sembra questo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, anche il mio, 1, 2, 3, 4 sopra, sì, e guarda questo qua. Chi è Valerio? Ehi, ciao Valerio, come stai? Meglio così, dai. Comunque è brutta, vero? Questa influenza hai detto brutta, ma anche la Talino l'ha detto. Purtroppo prenderà anche a me prima o poi. Allora Claudio, ho visto la radio e ti dirò che non la conoscevo. No, non la conoscevo, non mi è familiare questa. Va bene, bella, bella. Te l'ho detto, se io avessi avuto tante ragazze, tante fidanzate, quante radio, e tu sarei un Latin lover. Vabbè, è così utile. Non te l'ho detto, è proprio interessante. Pesi di magazzino, Tomasi, ma tanto messa lì assieme agli altri, però mi piaceva averla perché è una serie che sì, conoscevo, ma non ho mai avuto, sempre Icom, comunque bellissima, grandissima e bellissima radio, molto bella. Ciao Vali, buonasera, ben ascoltato, finalmente ti sento al naturale, dai, già ti stai rimettendo bene. Sì, ma infatti, te l'ho detto, io ho organizzato quest'anno un bel fine anno e siamo dovuti rientrare ci ha fatto sette giorni pieni, di cui cinque a letto, quattro e mezzo diciamo a letto, il resto in piedi, però la paura, ho dovuto chiamare anche la guardia medica perché non c'era niente da fare. Ancora c'ha questo un po' di debolezza, ed è passato anche un po' di tempo, però ancora non è in forma netta, proprio la crepata. Non si sa da che cosa, se è un virus, perché influenza vera e propria non ne aveva, però questa nausea, capogiro, vomiti, allucinante. Non c'era Cristo di bloccare niente. Vabbè. Sembra che sia passato, dai, va bene così. Sarà per il prossimo anno adesso. Invece io ho un leggero raffreddore, un po' di mal di gola, 3-4 giorni non avevo niente, però non mi ha dato febbre, nausea, né vomiti, niente. Proprio raffreddore e basta, semplice raffreddore. Passata anche quella. Va bene. Al prossimo anno adesso, per quest'anno già va bene. Lo so, già stai attenti, soprattutto quando qualcuno già mezzo influenzato con l'influenza in corso, bisogna stare attenti. Avanti Beck. No, io cazzo non ce la faccio più. No Gianni, io non ce la faccio più a sentirti in queste condizioni. Non ho capito niente, segnale 9, con questa radio tutta gracchiante, un po' esci, un po' non esci. Mamma mia Gianni, mamma mia. Tu sei come la formica, metti lì e poi alla fine ti mangi tutto, ti vendi tutto. No, io non vendo assolutamente niente, anzi sto sempre comprando, non vendendo. Va bene, ok, comunque metti a posto perché non stai uscendo bene, Marco. Ehi, mamma mia, io non l'ho mai sentito, ciao Capri, non ti ho mai sentito una volta entrare e uscire bene appena entrato, mai, o se ne va basso, o scarica, o strappi, va bene, comunque poi ha migliorato un po', dai. Claudio già mi capisce, eh? Cosa dico ogni volta, ma come si fa uscire così? Così detto? Non ho capito cosa ho detto. Vale, lo senti a Gianni Capri 2? Sicuramente non lo senti. Santiago 9 qua, il suo segnale 9.20, perché c'è anche questo problema Gianni, che ti possiamo ascoltare noi, ma se c'è qualcuno non ti ascolta, perché sei talmente basso con questa radio vintage che tu provi uno ogni giorno, che non si capisce. Io ti ascolto malissimo, molto male, tutto gracchiante, tutto con questo fruscio sotto, non so se il microfono, ora è quello spray buono, a secco per contatti, per lamelle, per la pulizia generale dei circuiti, ce l'ha Fusaro, ok, ed è molto buono, costa 7 euro e qualcosa, però è molto buono, passi e te lo compri lunedì, capito? E così le dai una pulita col microfono. Il Dreigot secco, ne hanno due modelli, uno è disossidante, rimane umido, invece quello che ho preso io, il disossidante secco, è bello, vale quello che costa. Quello ho preso Marco, è buonissimo, guarda, io l'intrider della radio di Massimiliano, erano un po' duretti, ho aperto il coperchio da dietro, prima da dietro, poi da davanti, dallo slider, li ho tutti, ma li sfiori col dito, camminano da soli, guarda, è veramente favoloso quel prodotto, veramente favoloso. E infatti, invece quello che avevo prima era sempre Dreigot, però aveva la bomboletta rossa, rimaneva umido, quindi non era roba da mettere sui circuiti, però potevi mettere sulle antenne veicolari in acciaio inox, di alluminio, di metallo, e ti lasciava una pattina un po' umida, come mettere olio, ti rimanevano belle, non pigliavano ossido, non pigliavano ruggine, niente. Però per i circuiti non va bene perché rimane bagnato, capito? Quello invece è l'ultimo secco, è eccezionale. E poi ti danno quella cannuccia quella piccola cannuccia lunga per arrivare in parti difficili, dai. Sì, sì, con quello lì infatti da davanti ho messo la cannuccetta dentro, proprio sono uno spettacolo, anche potenziometri, per esempio quelli del DAC, li ho puliti tutti con quello dall'interno, ho tolto il coperchio e li ho spruzzati, fatti andare bene avanti e indietro, perché prima si gracchiava un po'. Adesso sono tutti perfetti, belli puliti e ordinati, capito? E quello è l'ossido, la polvere, insomma le cose che si mischiano. Però è molto buono. Sì, infatti ho detto, tanto è 7,50 €. Claro, mi ha detto, guarda che non sono buttati, è buonissimo. Lo comprano tutti i radiotecnici, quelli che hanno laboratorio, è uno spray molto molto buono. Infatti aveva ragione, perché è ottimo. Vediamo un po', Valerio riprendi? Valerio ha caduto la sedia. Gianni Capri2, sta mettendo qualche radio più seria? Eia. Bene. Bello, mi piace questa configurazione. Questo è 3009 con molti canali, no? E c'ha il trimmer della M aperto, infatti spinge abbastanza col... E a 6 il microfono, lo sai? E a 6, guarda se lo metto a 10, sentirai anche l'aria, il rumore dell'aria. Ecco qua. Vediamo se si sente la TV di mamma. Si sente la TV di mamma? Per appena. La mia non la senti, stavo cucinando, c'è il telefonino con la cosa. È anche preciso questo strumento, è vero, 27.075.0, c'è anche il decimale. No, vabbè, ma non è... è il baracchino che non è preciso. Io ho dovuto regolare il clarifier in modo a metterlo... mica ti facevo la foto con la frequenza spostata, ho regolato il clarifier in ricezione per mettere lo zero finale. E questi baracchini 3009 sono, non si può dire certo che siano centrati, capito? A meno che tu non sia un tecnico che te li fai, avevo lasciato alto, me ne sono dimenticato. No, allora parlo piano, per sapere se è troppo alto o no. Dicevo, questi 3009, a meno che non sia un tecnico che se le allinea alla perfezione, però c'è anche da dire una cosa, che per allinearli, cioè tu quando li accendi, prima di arrivare alla frequenza finale, devono scaldare mezz'ora, un'ora, due ore, e va bene, estate arrivano in temperatura... in pochi minuti, però in inverno poi come arriva, quando si scalda ben bene si stabilizza e tiene la frequenza, però all'inizio ci sta un bel po', come il Pluto, come era il Pluto. Sì, capito ti ho. No, ma va bene comunque, lascialo così che va bene. Un bel aggeggetto. Adesso me ne vuole decidere, devo consultare un po', vediamo. Giulio, ma non ne ha più di attrezzatura, sta bugando tutto, capito? Quindi per fare l'altro pezzo dovevamo farlo prima, allora lì avrei fatto una bella sistemazione dei baracchini, perché ne ho veicolare qualche altro base, non è metto da parte, ce l'ho, quindi avrei portato la linea che poi c'è, cioè, dall'altra parte, la linea della corrente, il commutatore col cavo un pochino più lungo, per controllare la finestra, ha fatto un bel lavoro, solo che adesso è un casino, poi sono anche tra un po' in fase di trasloco, quindi non mi conviene mettermi a fare altri lavori qua, perché poi è un casino, questa sarà l'ultima stanza da smontare, ci vorrà un bel po' di tempo, no, più quello che mi preoccupa è su, perché devo tirare tutti i cavi, un casino sarà, però aspettiamo un tempo buono, poi nell'anito come assimiliamo un pezzo alla volta, piano piano, e inizio a toglierne tutta la parte delle direttive, tutte le cose, se no arriviamo all'ultimo momento che poi non ce la faccio. Vediamo un po', va lì. Vabbè, il microfono adesso è regolato a 10 e sono distante 20 cm dalla radio. Sto parlando con un volume di voce normale, cioè non così me. Voce non esagerare, uguale alla mia. Livello di voce normale. Era solo una prova per vedere se beccava il televisore di mamma, ma è abbastanza basso il televisore, dai. Non disturba. Va bene. Sono contento, dai, che sia forte, soprattutto per le distanze, Valerio. No, assolutamente, ma glielo ho detto di usarlo. Me l'avevo già detto in partenza da tempo fa, che appunto è una buonissima modulazione, perché lui poi parla piano, c'ha buone corde vocali, c'ha gli acuti ben compressi, i medio bassi sono molto buoni, e quindi è una bellissima modulazione, Marco, te l'ho detto. Ed è abbastanza forte, ma a me non dà fastidio. Va benissimo alla grande, a me piace la modulazione belle corpose, valei, capito? Quindi non c'è problema, poi sono col 440, c'è una bellissima ricezione, è ottimo per la truppa. Vediamo Gianni Caprivola se è caduto dalla sedia. Gianni, abbiamo detto che stavo facendo male, è andato in garage a prendere qualche altro residuato bellico. Vabbè, adesso l'ho abbassato a 7, non voglio che sia nemmeno esagerato in città. Per Valerio sicuramente va bene lo stesso, perché vedo i picchi, vedo lo smitter che sale abbastanza. E via. Sì, guarda Capri, o arriva basso, o esce a scariche, o strappa da morire quando entra. Non c'è una volta che si abbia sentito vecchio, buonasera a tutti, Capri 2, bello, chiaro, limpido, mai. Bisogna fare sempre lavori di aggiustaggio a quelle radio. Stavo cercando su eBay il frequenzimetro CRC SSKF6 e non c'è più, proprio non esiste più. Uno addirittura ti vende solo la staffa, la staffettina che è compresa col kit, no? Vedi, CRT SSKF6, contattore di frequenza staffa, 11 euro. 11,32 più 4 più 3,39 di spesa, la sola staffa. Sì, non si trova più. Ma ti dirò, io sì, mi sono fatto contagiare, ma poi alla fine magari metti lo zero in trasmissione, in banda laterale, tu metti lo zero, no, in trasmissione, credi di essere centrato, e magari quello che ti dice che sei spostato di 50 Hz, 100 Hz, alla fine cioè, bisogna vedere quanto è preciso il frequenzimetro, perché anche quello è una taratura, Claudio. Io lo credo che è una taratura. Allora questo è il 440, adesso commuto e ti faccio sentire l'altra, mi dici se c'è differenza di modulazione, microfoni uguali, sempre MC60, vedi un pochino. Allora questo è il gemello del tuo, Valè, c'è differenza di modulazione, leggermente cupa, leggermente più bassa, vediamo se c'è il processo di scelto qua. Sì, dovrebbe essere inserito. Questo è il gemello del tuo e il microfono è sempre uguale, leggermente più bassa. Ogni volta che la sente Roberto Quadrato mi dice che è più forte questa, non lo so. Tu Marco, non ti hai notato differenza tra una e l'altra? Così vicini no, Claudio, no. Non è per te, è sempre uguale. Vabbè, questa è uguale a quella che c'hai tu, Valè. Questa è uguale a quella che c'hai tu. Microfono uguale, vabbè, la radio è perfetta, funziona benissimo. Nuova, però la uso poco. Adesso ce l'ho sotto commutatore d'antenna, quindi li alterno sia il 30, il 40 e il 14. Li alterno un po'. Va bene. Adesso, quindi questo è il 14, guardo l'altra facettina, adesso ho commutato il 430, vediamo se noti differenza. Scusa, ci ho messo più tempo perché 130 uguale al 440, simile, differenza dal 140, com'è la differenza? Più forte anche per te, Marco, più chiara, più forte. Guarda, mi è parso di sentire dei toni appena appena più acuti, appena appena, l'altro leggermente toni un po' più caldi, questo appena appena più acuti, leggermente, la mia impressione è questa. Ma sono tutte e tre sotto MC60, quindi capito, non è che la voce è sempre quella, c'è magari qualche cambiamento, ma il 430 e il 440 ci assomiglia molto, 140 è magari è meno forte la modulazione, ma abbastanza apprezzabile, abbastanza chiara, vale, no? Sì, stavo ascoltando in cuffie, più o meno sono simili, però c'è un appena appena rimane leggermente, ma proprio leggermente, leggermente più basso. Va bene, ma la compressione della modulazione è simile, dai. Va bene, vediamo un po', microfono per Gianni. Gianni, ci sei? Niente da fare, riprendi Marco. Eccomi, stavo notando che questo frequenzimetro, la Cobra Workshop, lo dava sia blu, poi in passato lo dava anche sia verde, cifre verdi, anche rosse, cifre rosse, mai visto, doveva essere bello mio. Sto guardando quello con cifre verdi e sembrano quelle di quel baracchino che ho io. E comunque è sempre bello, il nome non è mai cambiato, è sempre stato quello. Bello, bello, adesso te lo faccio vedere, te lo mando. Sì, quello con le cifre rosse l'aveva fatto anche la ZG, mi pare. L'aveva fatto anche la ZG, però una grandissima porcheria. Quello che hai tu invece è molto bello, soprattutto sul Superstar con il display del Superstar blu come ci abbiamo noi, è molto bello, molto bello. Va bene, va bene. Avanti, Valè. Ehi, Valè, dai, se ne hai voglia che stai bene. Siamo qua. Siamo qua, qua. Oh, Capri 2, dove è andato? Non ho capito. Capri, Pari 2. Beh, spero non si sia offeso. Ecco qui, com'è? No. Oh, e cosa abbiamo? Non abbiamo detto niente. Sicuramente è andato a prendere qualche altra radio, sta mettendo qualcosa. Quella è, non si può sentire la modulazione così, è la pura verità, non è che stiamo dicendo, capisco che sono radio vecchie, però non si riesce a capire niente, quindi o sta riparando il microfono o è andato a prendere qualche, attaccare qualche altra radio, se non l'ha chiamato la moglie, boh. Eia, no, perché ho detto che non c'era una volta che l'ho sentito uscire bene appena entrato, capito? Vabbè, però insomma così andiamo qua. Boh, ma spariscono le foto da questo smartphone, ho scaricato una foto adesso, tu lo sai dove, io no, non so rintracciarla, mistero, forse non l'ho ancora trasferita la scheda di memoria, boh. Vabbè, pazienza, là, se compare te la mando. Eia, non problema. E Tatalino, c'è ancora gente, Natalie. Non avrà chiamato i carabinieri per la storia della chiave, no? Cioè, l'onfia la cosa, pensa, se tu abitassi in un palazzo con due piani, due persone, ti lasci le chiavi inserite nella toppa. Se spariscono, chi può essere stato in un palazzo come quello? Solo quello di su. E se le ha prese vuol dire che è in cattiva fede, però. Molto male, tu cosa faresti? Minimo salire e chiedere, questo abitiamo solo noi, dove sono le mie chiavi? Non lo so, boh. Non so, però Marco, per te bisogna essere certi, capito? Bisogna essere certi, sicuri, cioè avere prove certe, schiaccianti, altrimenti, capito? Può essere pericoloso, siccome tu mi stai calunniando a me, già io oggi ho problemi, tu mi calunneggi, insomma, cose si mettono male. Ma se Natalino ha detto così, vuol dire che è così. Beh, lì, sai, palazzo piccolo, cioè, non si scappa lì, vabbè. Allora, foto. WhatsApp non me ne fa download. Vabbè, cerchiamo sta foto. Ho detto, ma non entriamo più, te l'ho detto, Franco, niente, boh. E vabbè, so che ti dica. Lascia un attarino, sarà a far rendere con questo, boh. Piccole cose che seccano. Se l'avessero fatto a me, è che quel giorno, anzi, non me ne ricordavo. Non sapevo di averle lasciate nella toppa. Distrattamente ho portato le buste dentro, sai come succede? Vabbè, qua oro non ne abbiamo, oro gioielli non ne abbiamo, capito? Casomai mi dispiacerebbe per i baracchini rubati, e basta. Sì, ma non è che uno entra in casa e si porta via l'oro o i soldi se qualcuno li custodisce a casa. Sono tante cose da portare via che hanno anche magari dei valori effettivi, capito? Le cose con valori effettivi sono ancora più brutte. Però ci sono tante cose, tantissime cose, senza il danno che fanno, capito? Perciò, poi non va bene, assolutamente. Non va assolutamente bene, ne va comunque, bisogna stare attenti, non avere sempre occhi aperti dove si lasciano le cose, soprattutto le chiavi di casa, capito? Perché sennò uno le trova e dice, ma questo è quel palazzo, proviamo, facciamo piano per piano, la porta che apre, entriamo. Addio. Eia. Poi ho visto, esistono dei grimaldelli, sia manuali, sia con una specie di pistoletta a scatto, e sia con una pistoletta elettrica, no? Questo affare, lui vibra, tac, aperta la porta. Cioè, se vogliono entrano con niente proprio, entrano. E poi non ne parliamo delle serrature da blindate, questa chiave com'era bulgara, roba allucinante, e quindi di sicuro non c'è niente di sicuro, veramente. Cioè, se ci sono gli esperti con... No, aspetta, c'è gente là. Ma poi queste chiavi delle porte blindate è un casino. E se le perdi non è che la puoi rifare, sì, si può rifare, però come fai a rifare la chiave sapendo che l'hai persa? Chi l'ha trovata? E infatti, aspetta che abbasso il volume là. Un attimo. Avete ascoltato? No, io smetto tutto perché c'è un caldo allucinante qua. 4:30 100. No, 4:30 100. Non ho capito. Stavo per fare chiamata. Sì. Non ho capito. Va bene. C'è il PMR deserto oggi, come mai? Qua è successo. Ah beh, sabato. Chi può esce? Boh, può fare la spesa, se ne va in giro. C'era anche il sole oggi, una bella giornata. Mi sarebbe piaciuto anche in alternativa scendere a Platamona, farmi un giro, da solo ovviamente. Capito. E vabbè, pigliarmi un caffè al solito posto, solito giro turistico. Ma pensa a quella megera col freddo, con l'umidità, mamma mia. Quella se non è morta si morirà, e poi cercheranno il responsabile, o il comune che non gli ha voluto dare la casa, o chissà chi. Allora aspetta che spengo, perché non ci capiscono accidenti. Spento 180, spento, ok, commettiamo il lock. Sì, PMR, te l'ho detto, ci sono dei bambini tutta la sera che li sento io, ma forti. Vabbè, io con la radio grande ascolto e l'antenna è quella grande, quindi è chiaro che li sento, ma si è lamentato anche Gio Maria con Graziano, perché eravamo tutta la sera lì che nulla. Io ce li ho tutti accesi, quindi sono anche loro, li ascolto volentieri. Ma era impossibile ascoltare con questo bip, con questo avvoggio, alla fine ho abbassato il volume, quindi magari si sono spostati e non c'è nessuno per quello, capito? E io vado una volta, quando sentivo quei bambini sull'uno, sul due, no? Andando a Piazzale Segni con, non mi ricordo se avevo, forse era quello di Coquilanego, l'8008, ma poteva essere anche uno scanner col come si dice, col uffa, con lo smitter. Sono arrivato verso via Lune Sole, girando a Piazzale Segni, era un fondo scala lì, quei bambini. E gli stessi bambini, quando sono andato a Porto Torres, una mattina di sole, sono andato a Porto Torres, sotto casa di Sandro, con l'antenna da macchina, bassi bassi, ma arrivavano a Porto Torres, gli stessi del canale 1, una cosa impressionante. Pensa, sicuramente erano lì in alto, zona Piazzale Segni, arrivavano a Porto Torres, anche se terra a terra, aspetta. Te la spingo, Antonè, scusami per ieri se hai telefonato, ma non ho trovato, non ho sentito la chiamata, l'ho letta un bel tardi. Eia, vabbè, dai. Claudio, l'hai visto con le cifre verdi? Prima che facessero i 3009 col display blu, no? E quindi frequenzioni su cifre blu, facevano cifre verdi. Però cifre rosse io in Italia, in Europa non l'ho mai visto, deve essere roba americana, a cifre rosse. Ciao Antonio, buonasera. No, lo faceva la ZG, te l'ho detto. L'avevo fatto la ZG, ma era una porcheria, no? Decimale ballava, era uno schifo. No, quello è molto bello anche il verde. Però sai, qui alla radio come ci abbiamo noi, col display blu, è molto bello blu, frequentemente vuole sembra più su, abbinato, se no sono due colori diversi, no, non è tanto bello, però è sì, bello anche quello lì. KK, ti ho sentito ieri sera Antonio Contino, cosa, che ora era? Le 11 era? Erano le 9, cosa, che ora era? Ho sentito, non so, pensavo ieri, non era così tardi, ma ieri no, ieri a quell'ora ero alla TV, io dopo ho portato il cane, intanto non c'è più nessuno, mi fa un po', 10 minuti ancora, poi mi preparo, vado a portare il cane e spengo tutto. Oggi ho fatto proprio strike, le ho accese tutte le mie spente adesso perché salita la temperatura in questa stanza con tutto acceso a 20-22 gradi, ho fatto la finestra, non si becca, c'è il riscaldamento acceso più tutte le varie accese, poi sono quelle valvolari, mi come il DAC, ho acceso anche gli aircraft oggi, figurati, per un anno non ho attendito, per quello quando iniziamo a scaldare le valvole, quindi la bocca di aria a galla. Va bene, riprendi Marco. Antonè, ho trovato una telefonata persa, ma non era, credo fosse ieri, era alle ore 21:51, alle 10:10, dai. Cosa ti volevo dire Claudio? Boh, preso il filo adesso, mi sono distratto, boh. Boh, vabbè. Ci sono tuttora questi bambini in PMR? Sì, ce l'abbiamo qua. Sì, perché qua tuttora non c'è nulla, dai. Nulla, proprio nulla. Bene. E ci manca solo che si piglino il Baofeng e i bambini, così... così fanno casino forte, me. Ma wow, ho abbassato il volume, tutta la sera con questo cicalino, tutta la sera, a voci, questi bambini, queste cose, Mamma mia, mi stava prendendo la testa. Mi stava prendendo la testa, arrivavano anche qua, sicuramente se c'eri tu li sentivi, arrivavano anche qua. E io stavo dicendo, Graziano, sicuramente non era zona loro, capito? Ma arrivavano anche qua perché io uso la radio grande, ricezione, con l'antenna esterna grande, e quindi arrivavano anche qua. Sì, sono quelli della Brondi, no Marco, non sono... No Frank, sono quelli della Brondi perché Cittadino era quello che era tanto meglio. Ma una rottura di scatole che non viene bene a dire, fatemi, non aspetto adesso. Aspetto la radio grande, aspetta, perché anche poco fa c'erano. Mi sto vestendo, riprendi Marco. Ah, e cosa ti volevo chiedere? Ma Claudio, tu hai trovato l'acquirente per lì? Diciamo al 90%, sto aspettando che le diano il mutuo, comunque l'impegno non l'abbiamo preso, stiamo andando avanti. Adesso aspettiamo se, perché adesso lunedì ci sono 3-4 appuntamenti, 2 di mattina e 2 di pomeriggio. Capito? Però è... diciamo che al 90% con l'ultimo, non è l'ultimo, comunque uno è molto interessato e appunto ha già chiesto il mutuo in banca, ma a parte ce l'aveva già, infatti voleva bloccarla e la Tecnocasa ha detto no, quando lei è pronta che ha tutto ci vediamo, quindi spero per lei, a me non me la frutti nulla. Spero per lei che le diano il mutuo e così concludiamo, però stiamo andando avanti. Un sacco di persone stanno venendo perché il posto è molto tranquillo, capito? Poi io ho 2 posti auto, ho quello che mi ha lasciato i miei suoceri e il mio che non avevo dato. Ho 2 posti auto, la casa è grande, è abbastanza nuova perché abbiamo rifatto un bel po' di cose 4 anni fa. Capite? Quindi poi c'è tre stanze da letto, grande la casa. E soprattutto molta gente vuole il giardino così come ci abbiamo noi, sia al lato interno che al lato esterno. Soprattutto chi c'ha animali, chi c'è tutto recintato, cancelletto, ecco, è un posto tranquillissimo, quindi sta venendo un bel gente, ma l'aspettavo. Eia, però ricordati, vogliono anche la sala radio completa assieme alla casa. No, il problema è quello, che ogni volta io questa porta la tengo sempre chiusa, no, quando c'è gente. Le faccio vedere le 2 stanzette eccetera, e questa ve la faccio vedere, però preferirei non darla. Secondo me rimangono così. Ehi, che cos'è questa cosa? Sai, io sono uno speaker, quindi questa è la mia radio privata. Un DJ, ah, com'era quello di quella radio lì, come si chiama? Awanagana, di una radio, me lo ascoltava nonna, capito? Era uno speaker alla radio. Ma... chi? Radio Monte Carlo. Ah, eia. E ricordo, nonna me lo diceva sempre, Awanagana, ma gana di cosa? Oh, lascia perdere. Grandi di età, ma era praticamente venuto perché la figlia non poteva venire, è venuto il padre e la madre, grandi, so forse quanto è me. Oh, c'è caduto questo, oh, radio privata, che radio è? Ho detto, non mi ricordo, Franco, la cassata che gli ho detto, e come trasmette? 27 MHz, ehi, allora domani mi bongo, ehi, ma è musica bella, fa sì, musica sarda, musica, ehi, metti Gioia Maria, domani mi, 27 000, lei si mette lì e sente la mia voce trasmettere, l'ho detto, faccio anche dei quiz a volte, oh, cazzo, non è girato, mia moglie è lacrime, stavo scendendo. Voglio vederlo cercando 27 MHz sulla radiolina. Guarda un torrone, per carità. Invece un altro giovane, insomma, una coppia, e subito come ha aperto la porta, ehi, quanti baracchini, ha detto, non si offenda, ma mi sta offendendo, quelli non sono baracchini. Eia, io ancora della radio, troppo bello. Voglio vedere con l'autoradio, cioè a centrare i 27 MHz. Va bene. Vai Antonello, e beh, come tizia già. Come andiamo a mangiarci una pizza, Antonello? Anche con Antonello vogliamo organizzare qualcosa. Ah, visto che non riesce mai a venire con noi. Quando vuoi Marco, non c'è problema. Andiamo. pensavo, almeno una volta. Eia, però tu non ti scolare tutta la birra della pizzeria, eh? Tranquillo, tranquillo, ha fatto la birra ghiacciata e con la roba calda non è che vada molto d'accordo, fresco per bermi il vino che sono più sicuro almeno. Ma ha detto gli a Marcolino, ma com'è che hai trovato le bottiglie di spumante sopra il marciapiede? Viene mai toccato, detto direi. Me ne sono dimenticato. Tre bottiglie di spumante, uno è Gancia, gli altri due non mi ricordo, ma sono di marca buona. Figurati, no, nuovi, sigillati, mai usate. Messe sopra un muletto. Col corvo sono passatomi. Ho avuto un occhio, mi ha fatto, mi ha detto che ci sono tre sfumate. Vai, ha detto che non è vero. Torna dietro e mi ha fatto il prete e dice, mi ha detto, se ci sono quelle che la sciuglio, ho detto. Sì, che maledetto, che siano due gancia e forse uno champagne, cos'era? Occhio che non sia un trucco, mica, non l'abbiano riempita a piscio. No, è sigillato proprio, capito? Tutto sigillato, anche quello di coso di sopra, non c'è nessun trucco, sta tranquillo. Ho già controllato. Ho controllato anche se c'era magari qualche buco di qualche siringa, ma non c'è niente. Quella è roba di qualche qualcuno magari o gli hanno regalato e non ha bevuto, oppure qualche musulmano, cosa ne so. Ma già pieno, è passato Antonello e direi in gran cd. Antonello, dille a quella persona là per capirci la prossima volta, linguaggio più idoneo, capito? Un po' più corretto, anche se magari lo sentiamo solo io e tu, però, mamma mia, una vergogna. Ma chi, Mario? Per carità, Marcolino, non te ne dico, guarda. Le parolacce e le cose che stava dicendo ieri parlando con Antonello in PMR, mi stavo vergognando, infatti ho passato il volume perché c'era mia figlia che si stava lavando i capelli, c'era la porta aperta del bagno. Una cosa impressionante. Oh, pure maleducato, Io da me non arriva, quindi non lo so. Così sboccato è Antonello? Sì, appena, già è entrato Claudio, insomma, con colazione. Mario infatti non l'ha sentito, ma ci ha scritto a Claudio io ieri sera, poi da lì siamo passati in, Mario lo ha chiuso e sono passato in 27, e è stato Gianni Capridu da Muros, capito? E basta. No, ma io non mi permetto di dire niente a lui, lui deve essere tu a dirglielo, infatti già gliel'hai detto, quando io portanto a me, mi devi parlare bene, che c'è gente ascoltando, già gliel'hai detto. Maleducato sboccato, ma parole allucinanti, Marco, butta da butta, ma gli metto esaurito. Io lo sento, se arriva l'Antonello arriva anche qua, poi io ti rispetto l'antenna grande e la radio grande per ascoltare lì. E quindi sovrannovazione, tanto mai fallo parlare bene, c'è gente sta ascoltando, Antonello già gliel'ha detto, ma è una cosa impressionante che sono, maleducato non viene bene a dirlo. Io mi ricordo che quando eravamo al bar con Antonello, la prima volta che volevo ordinare i portatili digitali, c'era lui, ah sì, se mi puoi dare il sito così me li ordino, li vendo ai cacciatori, li vendo, aspetta, così diventa un bordello anche il digitale, e io zitto, e ogni tanto chiedeva, no, sì, se mi dai il sito, e io zitto, non gli ho dato assolutamente. Te ne mangi, se diventa un bordello anche il digitale, già capito. Oi, per lui c'è il gomito alzato sempre, mi c'ha un difetto, come si dice, un difetto ortopedico, per cui il gomito è sempre alzato, non so se mi spiego. Sì, ma per carità, ognuno può avere pregi e difetti della sua vita, può ubriacarsi quanto vuole, però dal momento in cui, tra l'altro, gliel'ha dato Antonello e io ti do una cosa per sentirci e per parlare, devi avere un atteggiamento corretto, educato nei confronti anche di chi ascolta, capito? Perché ci può essere gente a casa, come a casa mia, a casa tua, a casa di tanti altri, io ho le radio accese, ma una cosa vergognosa, mi stava schifando, capito? Mi stava schifando proprio a tu e tu con sesso ad alta quota, e alla fine sono volato, tanto me fa parlare bene perché fa veramente schifo, e Antonello già gliel'ha detto, per carità, però si è calmato e poi si è ripreso, quindi alla fine ha già baciato il volume e se la biglia in gomma di vostra macchina. A volte noi non siamo attenti oppure non ci pensiamo, ma a noi ci ascolta tanta gente, anche se non entrano, uno che ha piacere ascoltare. Io sto tutta la sera ascoltando, io non ho mai sentito, io sul PMR è sempre acceso, dalla mattina alla sera, non ho mai sentito quelli che parlano in PMR, a differenza di Antonello che ogni tanto entra e dice qualche fesseria così scherzando, ma c'è un linguaggio molto corretto ed educato, questo volevo dire sinceramente. Quindi mi fa piacere ascoltarli anche se non c'entro, ma nel momento in cui io sento un QSO da qualsiasi parte, che sia PMR, che sia 27, che sia da qualsiasi parte, ineducato, a un certo punto farebbe abbasso, perché se c'è mia figlia, c'è mia moglie, io porca miseria, non sono un santo, qualche parola ce la dico ma non a quei livelli, proprio una cosa vergognosa, da schifo. Quindi Antonella, quando lo vedi in verticale, diglielo, la prossima volta che entri a parlare così com'è, entra e parla pulito, perché se no non te lo faccio sentire, capito? Non te lo faccio sentire, non te lo faccio ascoltare, perché veramente un grandissimo, grandissimo maleducato, un uomo grande, a quando mai deve parlare in quella maniera, per carità di Dio, mamma mia che schifo. Raga, vi saluto momentaneamente, vado a portare il mio bambino, cosa c'è a nonno? Vuoi uscire? Adesso vai a prendere il passeggino, corri. Adesso prendo il passeggino e lo porto a fare un giro il bambino, poi ci sentiamo. Ciao, e prendi Marco lì. Lei un giorno, se sono in zona, in quella zona, gliele faccio un bello scherzetto, già lo so io. Vai Antonè. E via, a nonno. Via nonno, bubù. Ui, ui. A me, tu mi sembra invece mio figlio, mi sembra. Ieri notte ha fatto il lupo, si è messo a piangere, non ho capito perché. Evidentemente si è sentito magari qualcuno che si sentiva male, qualche cane magari, cosa ne so. Quando si è spaventata ieri notte. Io ero addormentato nel bosco, quindi non mi sono accorto di nulla. Anche perché ieri ha dormito in salone lui, ieri notte. Va bene, claro, ci sentiamo dopo. Avanti Marco. Oh, Antonè, sai perché è nonno, viene a nonno? Perché io sono il nonno, mia moglie è la nonna, mia figlia è la mamma, e il ragazzo è mia figlia e il babbo, capito? Per quello cioè, vai a prendere il passeggino al nonno, aiuto, mia bandemia, domanda e figlio guizzaglio, capito? Ci sentiamo dopo, riprendi Marco. Veglia, questa io non ho mai capito chi fosse Ilaria, perché ho capito lavoravo al MEC. Invece la figlia di Vittorio Giove avevo visto chi era, l'avevo conosciuta, avevamo parlato di Vittorio perché mi ha visto un portatile in mano, dice ma se parli tu al baracchino anche, insomma. Allora Ilaria non ho idea di chi sia proprio. Ma Ilaria non c'è più al Macedonia, già un po' di anni che è al Tanit, capito? Si sposta dal Tanit al tie break di via Monserrato, che è sempre la stessa cosa, capito? Ma c'hanno i cartellini, chiunque andava lì, vedete, c'è scritto il nome, capito? C'è il cartellino nella maglietta con tutti i nomi, quindi se andavi lì e leggevi l'aria la vedevi chi era. Ma noi siamo Tanit e anche lì c'hanno la maglietta col nome, capito? Quindi o al Tanit o al tie break di Monserrato, comunque già la vedi. Va bene, dai, che c'ho a Pippo qua, andando stiamo, preso il passeggino, non l'ha preso ancora, adesso vado a prendere il passeggino e lo porto, vai, ci sentiamo dopo, vai Antonè. D'accordo, claro, dopo. Non c'è problema. Neanche la conosco Ilaria, Marco, figurati tu, e a cavallo lo conosco a parecchio tempo, sono stato anche a casa sua un giorno, non mai vista. Avanti Marco. Beh, io al McDonald's, diciamo, andavo già anni fa, insomma, meno male da quando aperto ogni tanto andavo. Va bene. Aspetta, ci sono spifferi d'aria in casa, ho chiuso la finestra del bagno, eppure da destra arrivano spifferi, ci restano un po' di venticello, e poi sento questo odore puzzinoso del camino di questo qua sotto. Ti becchiare ciego, cazzo. Lo sai che lei non può usare, li puoi chiamare i vigili urbani e lo fanno nuovo a lui, perché ci sono i polveri sottili, se tu ti guardi la bolletta dell'Enel c'è anche scritto energia, capito? Sì, lo so, è una struttura abusiva, non puoi mettere il comignolo a 4 metri dal terrazzino, no? È una questione di salute pubblica, è una questione di abusivismo edilizio, più tante altre cose, solo che quando volevamo farlo noi, quell'altra persona danneggiata non ne ha voluto fare. Adesso che un giorno dice lo vorrà fare lui, ha chiesto se ci stavo a mettere la firma. Mi spiace, io non la metto più. Che lo faccia lui, così si piglia i casini lui e a noi non ce ne fotti nulla. Poi c'ho il naso gonfio, sono davanti a Rinagina, penso sempre che sia l'influenza in arrivo, cosa ne so io? Oh, vabbè, ieri, anche stamattina c'avevo del raffreddore, perché ieri in macchina c'era il riscaldamento acceso, ma mezza acceso, e quindi c'è il raffreddore esterno, quella calore interno della macchina, è una cosa impressionante, infatti ho aperto un finestrino da parte mia, capito? E comunque la sorella è entrata a casa, ero tutto, mi sentivo tutto strano, mi c'era presente quando piglio un pericolo, si avvicina un caminetto, fuggi così. Ehi, un attimo, mi ha chiamato mamma Antonio, un attimino, eccomi qua. Dimmi tutto, cosa mi hai detto? Poi io avevo il riscaldamento acceso in macchina, capito? Nella panda, quindi bagnere tu a Valetta, come sono uscito fuori, mi ha beccato a me. E l'ho messo influenzato stamattina. Ehi, è la panda di chi? Di Mario, sono andato a cosa insieme a lui, ci avevo portati le PMR. Quando sono entrato a Sassari, stavo parlando con Graziano, siamo andati a cercare questo, come si dice, il calendario per i diurni. Eia. Sì, sento lo spiffero da destra, a meno che non abbia lasciato addirittura la finestra aperta del bagnetto. Mamma mia. E fissazioni c'ha mamma, fissazioni della finestra aperta, quando mai in pieno inverno si lascia la finestra aperta, del bagno almeno, non una cosa mai sentita. E vabbè, gli anziani vogliono sopportati, vogliono. Pensa quando sarei io anziano, io sono già rincoglionito, adesso pensa fra 40 anni. Già me la immagino, aspetta, mi sembra c'è qualcuno che vuole entrare, sì, che c'è sotto, che lo sento ogni tanto, sparito, quando stavo parlando sentivo un fischio sotto, quasi qualcuno stava parlando per i fatti suoi. No, magari qualcuno sta provando ogni tanto, eia. Bello questo baracchino, il 3009 non c'è niente da fare, è quello che preferisco di più. Il più silenzioso in macchina, il più silenzioso anche a casa, perché gli altri prendono un po' più di QRM. Caspita, in macchina ormai è da tanto che non ne porto baracchino, perché entri su 10, vedi, siamo sempre due gatti, tre massimo, con Natalino. Gli altri non stanno più entrando, Antonello non entra più da tanto, non so. Prova a telefonargli Antonello. Antonello Di Ussi, oppure li telefono io un giorno. Sapere come sta, se va tutto bene così. Sì, non è sempre l'ascolto, perché l'altra volta era l'ascolto, se ti ricordi, ci sta ascoltando, parlami bene, è entrato, te lo ricordi? Beh, un giorno sì, un giorno abbiamo chiamato, è entrato subito, aspetta un attimo, fermo lì, un attimo che sto provando, sì, il blocco del tasto dello ZG. Bene, bene, caro Pomponio, peccato che non vendano più i Svelta Ecomaster Plus, nuovi di negozio, l'avrei preso davvero, purché è nuovo dal negozio. Il capigliale usato non mi fido, magari sono toccati, o gli cambiano la capsula, o li modificano, vabbè, pazienza. Qui ci sono le Svelta in giro, basta guardare fuori, penso che ce ne siano parecchi di Svelta, sono dei microfoni, a meno che non è andato qualcuno a Torino, lì da parte negozio, magari che non l'ha mai venduto. Ehi, magari vecchio di anni, vecchio di decenni, avanti break, c'ha Giuseppe, ben sentito, come ti senti? Qua Marco da Sassari. Giuseppe, lo so, poi eri stato poco bene, quella cosa lì era venuta. Siamo rimasti io e Pomponio, Claudio è uscito a portare il cane, e così stiamo parlando del più e del meno. Eia, arrivi Santiago 6 a casa, Santiago 6, Antonello quanto lo ricevi tu? Sì, Santiago 3-4, mezzo 75 FM, quando parla poi c'è la radio, un bel cuffa. Cioè ti arriva più basso a te che non a me, possibile? No, forse dovresti interpretare lo smitter, perché qua, facendo il paragone col Kenwood, ti faccio un paragone, no? Giuseppe arriva a Santiago 2, a questo smitter, ma Santiago 2 di questo smitter vuol dire Santiago 6, ha fatto il paragone col Kenwood, capito Antonello? Già ho capito, per quello posso staccare l'altra da là, quindi la 3009 ha cancellato gli ISO, e sono subito quando arriva, ma non va a giocare, va... Capito. Ah beh sì, lo Iesu i segnali sotto il 9, cioè dall'1 al 9 li segna abbastanza bene, diciamo. Eia. Ui ui ui. Lui, lo biocco, abbiamo mangiato fuori oggi, il kebab sempre, mamma è fissata. Ogni tre giorni io a mangiarci il kebab. Eppure è una cosa abbastanza semplice, non è altro che carne di pollo arrostita, cipolla cotta, cipolla, pomodori, insalata, cosa manca? E poi mettono una salsa piccante e una salsa bianca allo yogurt, fatta apposta per il kebab, si può fare anche in casa, il pane, ci metti due panini che vuoi tu. Per mangiare quello preferisco andare a prendere da prendermi la farina con le cipolle domani sera, scendo in via Tempio, capito? O meno di una farina, intanto ci impiega quei 10-15 minuti, in quei 10 minuti vado da lì, bevo una birra, poi prendo il tram e sta come ho fatto un'altra volta, che poi manco ho mangiato la bevo io, perché l'avevo regalata ad Alessia, che è incinta, capito? Che ho detto, tieni Alessia, mangia, che così mi ha detto l'assaggi, e la mangiata è da io, avevo mangiato, ho accennato un'altra cosa invece, la notte poi. Eia, mi ha detto mamma che sta piovendo, Antonio, non me ne ero nemmeno accorto io. Perché non me ne ero accorto? E già mi ricordo che Alessia, mi ricordo, gliel'hai data, se l'hai mangiata tutta. Sì, se l'ha mangiata tutta. Intanto c'è qua. Segnale 5 si è oscillato. Se l'ha mangiata tutta è da, aiuta. Vabbè, non fa niente. Adesso domani me la riprendo, le piglio 5 euro o 7 euro e me la mangio con la cipolla. Poi mi bevo un bel bicchiere di vino, perché se bevi la birra sei morto, noi a tirare. Ti viene questo attacco di diarrea con la birra che non hai idea. Oh, no, ieri era un po' così. Sono andato in bagno 3 volte e 2 volte era un po' così, un po' diarrea. Vabbè, può capitare, tu sai, io tra pasticci, dolci, non ho mangiato niente di strano comunque, niente di particolare, e va bene. Vediamo se Natalino è all'ascolto. Natalino, ci sei all'ascolto? Ma no, non è rientrato, era incazzato per una storia della chiave. Che si è lasciato la chiave nella toppa, non so se lui o la moglie, no? E lì ci abitano solo 2 persone in quel palazzo, capito? Qualcuno ha sfilato la chiave della toppa e se l'è presa il mazzo di chiavi, capito? E pensa che sia quello di sopra, e tanto lì non entra nessuno, e il cacciato nero era, mamma mia. Tu bisogna cambiare la serratura e ti partono almeno 100 euro, mi. Se ti partono pure, a parte che devi piacere la scala per entrare in casa tua, quindi devi chiamare qualcuno che abbia una scala lunga, come la ma è molto piano. Quando si mette arriva tranquillamente in casa sua, proprio perché se hanno fatto la chiave tutti tu vuoi questo. Capito? Ui. No, già in casa Natalino. Però credo la moglie si sia lasciata le chiavi nella toppa. Almeno così ho capito. E qualcuno le ha sfilate e se le prese. Molto male. Poi sai cos'è? Lui c'ha la serratura blindata. Quindi bisogna cambiare la normale serratura più quella blindata. E costa un bel. E vabbè. Capita. Non dovrebbe capitare, ma capita. Anche a me è capitato. Un giorno torno, all'ora di pranzo, vado a riposare, tra la sera non trovavo le chiavi dove erano ancora inserite nella serratura, fuori dalla porta mi. Nessuno le ha toccate per fortuna. Sì, anche me lasciate più una volta le chiavi fuori, tutta la notte anche. C'è uno che si è lasciato addirittura quasi un mese. Meno male, gli ho dichiarato io, gli ho chiuso la porta, poi quando è diventato gliel'ho dato, capito? Era quello che il primo inquilino che era venuto sotto di me, capito? Se l'avevo dimenticato le chiavi fuori, quasi un mese, la porta sempre aperta, gli ho detto, meno male quando non entra nessuno in questo palazzo, sai che qui non ti aprono, non aprono manco il postino. Quindi è raro che entri qualche lato, invece nel palazzo dove c'è l'amico tuo, lì sono entrati 4-5 volte a rubare, capito? Lì da dove c'è Giuseppe Velato è. Oh, come ho detto a loro prima, ho visto dei video, ci sono degli apriporta sia manuali, no, con questi grimaldelli, sia con una pistoletta a scatto e sia con una pistoletta elettrica, no, che muove questi grimaldelli, in un attimo ti apre la porta. Poi per le serrature blindate ho visto che c'è la chiave bulgara, la chiave bulgara che ti apre tutte le serrature blindate. Mamma mia, non c'è da stare tranquilli, no, cioè se vogliono entrare entrano comunque, non c'è nulla da fare. Se deve già entrare perché c'è il cane, prima di tutto si mette a bagliare e ci sono sempre io o Simona in casa. Diciamo che quando di solito usciamo già nel palazzo non entra nessuno, a meno che non ci abbia la chiave proprio per entrare nel pontone, perché te l'ho detto, non apro manco a postino qui, figurati tu, qui non si fila nessuno, infatti pare che gente rimane fuori a aspettare, oppure sono a me per dire. Allora, siccome io vedo una persona, la riconosco e gli apro, se no domani la zaro. Capito? Non c'è più la scusa dei volantini, no? I volantini sì, ormai li mettono fuori e rimangono fuori. Sì, è arrivato. No, volevo dire sì, anche noi abbiamo il contenitore per i volantini fuori dal portone. C'è qualcuno però. C'è qualcuno che sta lasciando il portone sempre aperto, lo sai. Spesso e volentieri lo trovo aperto. Il portone va chiuso, perché poi entra gente strana, non lo so, possono entrare zingari, possono entrare ladri. Va lasciato chiuso. Ogni tanto lo trovo aperto. Io ogni volta che torno lo chiudo, faccio lo scatto, capito? Oppure mettiamo il solito coso, si prega di chiudere il portone perché non sai mai chi entra. Per esempio la notte, sai che c'è a Marmaglia, magari non sanno dove fare la pipì, entrano nel portone e fanno la pipì nel portone, ogni schifo. È arrivato un messaggio con un Sadelta, se l'ascolto puoi parlare, Giulio? Sì, ma non posso, ciao Marco. Eia, come mai? TVI o altro? No, sono impegnato. Si sta arrivando adesso aperto, quello che tu hai poc'anzi menzionato. Ma si sta arrivando adesso fra un po' l'altro, guarda. Qualche secondo ancora ti arriva. Si è quasi. E adesso arriva. Eia, aspetto che arrivi, eccolo qua. Sì, dicevo, a me piacerebbe, non il Pro, mi piace quello che ha pompone, il Sadelta Ecomaster Plus, però nuovo di negozio, purtroppo nuovi non ne trovi più, sono sempre usati. Esci a vedere, vi apro in diretta la foto, vediamo. torno indietro. Vabbè. Ah, sì, questo è il Pro aperto, sì. Sì, no, a me piaceva più l'Ecomaster Plus, quello col gambo sottile. Quello esce che è un bijou, esce proprio limpido. Purtroppo nuovi non li trovi, sono sempre usati. Poi può essere che gli abbiano cambiato la capsula a comprarlo usato, può essere che li abbiano, come si dice, che l'abbiano modificato, capito? A trovarlo perfetto, e vabbè, purtroppo. Ormai abbiamo solo ZG di roba nuova. ZG è a limite a static, ma static escono metallici, no? Non mi piacciono gli static. Questo è l'Ecomaster Pro, non è Plus, questo è Pro. C'è anche l'Eco, c'è qua, è delay, per appunto regolare la... è più il volume del volumometro, naturalmente sempre con col suo strumentino, quando moduli anche da stretto, anche da staccato, perché la portante è già farmi e già sale il volumometro. Eia, quello sotto è il Superstar 360 FM, vero? Mi pare di riconoscere le manopole. Sì, sì, l'ho messo sopra per scattare la foto, praticamente, però non sotto la cassetta, prima di solito io uso le 24, però questo va è molto ma molto bene, forse anche meglio delle 24, forse più forte. Eia. Io in questo momento sto usando un Superstar, che poi il nome vero è Super Jobix SS 3009, SS sarebbe Superstar, quindi Superstar 3009 con l'MB più 5, e ovviamente il trimmer del Superstar è aperto tutto, quindi volume 7, e una modulazione discreta, dai. Però il Sadelta è veramente bello, quello che ha Antonello e quello che hanno molti altri. Sarebbe stato bello trovarne uno in perfette condizioni, purché non toccato, non modificato. Quello l'avrei comprato volentieri, eh? Ce l'ho anch'io quello, solo che è difettoso il PTT, è difettoso, ha le fiancate rosse, il gambo sottile, cromato, è bello, con il microfono è molto bello, ma è difettoso il PTT, è per quello che l'ho messo da parte, non lo... c'è l'interruttore praticamente, no, che è all'interno, non si trova uguale. Come ci sono diversi contatti, mi sembra 8 o 9 contatti o addirittura 10, e quello che ho trovato era a 5-6 contatti, dunque non andava bene, e allora non l'ho nemmeno comprato. Sono rientrato, buonasera Giulio, sta piovendo. Ciao qua. Beh, non aveva dato Claudio quello, infatti, quello che stai dicendo tu, Marco. È un bel microfono, esce anche molto, ma molto bene, fortissimo. Solo il problema è che alle volte aggancia, alle volte non aggancia, proprio per effetto di questo PTT che è un po' difettoso, tutto lì. Infatti l'ho messo da parte perché non fa bene a modulare così a singhiozzo. Ciao Giulio, comunque. Ciao Antone. E lì ero per entrare in questa stanza e stavo ascoltando tutto quando stavo parlando del master del microfono. Sono Marco. Adesso sono qua, lo tiro fuori la cassetta, ho scattato la fotografia e glielo mando, così lo vede. E prendi qua. Eia. Non sono accorto di niente, stavo più vicino, sono sceso giù col cane. Comunque con la piccellina nonna, che non disturbava, mi ha fatto un girettino. Ciao Giulio, buonasera. È un peccato quel microfono, veramente. Era sempre fermo. Poi l'ho usato qualche volta con qualche radio, ma non mi sono accorto di niente. Un vero peccato. Vabbè. Pazienza, già qui va. Avanti, Marcoli. Ehia, nel frattempo sto mangiando qualcosa. Un pezzo di pizza già pronta, no? Nonostante abbiamo già, diciamo, mangiato fuori, no? Ci abbiamo preso un kebab alle 2:30 a Daoshan. Praticamente ci abbiamo fatto un po' di pizza questa notte. Il vero che mamma, no, questa sarebbe la cena. Poi però a mezzanotte ceniamo di nuovo, capito? Perché viene di nuovo fame. Poi sentivo un odore strano, vado in cucina, un fumo c'era. un fumo, perché sai, quando metti la pizza al fornello elettrico, certe volte cola un po' la mozzarella, anche se metti la carta a forno, magari cola da un lato, va sull'elemento arroventato e fa un fumo terribile, guarda. Mamma li turchi, adesso ho aperto un po' la finestra per arieggiare. Figurati se ci metti in collo a posto della mozzarella. Adesso mi viene in mente il nome, quella che ha i bicchieri, metti quella, ti fa un fumo e ci fuori la cosa dalla camera, se tu per 3 giorni non rientri, la gorgonzola. Buona. Un giorno ho fatto la pizza così, ci ho messo la gorgonzola, il formaggio, la mozzarella, quasi, lì c'è un fumo, ho dovuto lasciare tutta la notte aperto, da allora che c'era, stavo morendo, stavo. Aspetta che faccio 10 minuti di Corix e che sto facendo una cosa, già rientro subito. Dai, io scendo a cenare, là, ci sentiamo. Ciao Claudio, ciao Marco, ciao Antonello, ci sentiamo domani. Scendo per la cena, sono già le 8:15, dunque mi hanno chiamato. Ciao a tutti, ascolto il finale e poi chiudo, vai, qua. Ehi, ciao Giù, grazie per essere entrato, buona serata, buon fine serata, buon tutto, buona cena e a domani. Vai a Tomè. Ci ho sentato. Scusa Giulio, sei massico, ma buona cena, dai. Caspita, l'altro ne vedo che sono le 8:14. Quindi mi sono perso anche il telegiornale, vabbè, non fa niente. Ciao Giulio, buona cena. Claudio, io, vabbè, sto ruminando, quindi non so se conviene chiudere oppure. Tanto non credo rientrerò. Te capì? Sì, scusa che mi si è spenta la televisione, non capivo perché. Ciao Giulio, dai, a domani, sì, anch'io mi ritiro, dai. Giorno Letta, che sono in radio, va bene così per oggi. A domani, una cordiale buonasera a tutti quelli che sono in ascolto qua sui canali 10. A domani, buon fine settimana, ciao. E io lascio comunque sempre acceso, io lo spengo a mezzanotte qua, in baracchino di solito, non si sa mai qualcuno chiami, sai, una remota possibilità. Ok, buonasera. Oh, se no, cioè, posso rimanere anche fino alle 9, ma sembrano due disperati come sempre. E vabbè, cosa vuoi ti dica? Vabbè, da a domani, ok? Già ci sentiamo domani. Ciao Claudio, ciao. No, Marco, mi sono trattenuto anch'io, ma non so manco più cosa dire, poi mi stacco un po' e vado a svegliarmi nel divano a guardare un po' di TV, che ancora c'è il telegiornale, poi c'è quello di 8:30, quindi almeno quello di videolina me lo guardo. Ciao, buonanotte, saluto a mamma, a tutti, ciao. Ciao Giuseppe, ciao, buonanotte. Ah, ciao Giuseppe, scusa se mi ero dimenticato. Ciao Giuseppe, buonanotte, io sto cenando, dai. Ciao, ciao.